facendo il mezzo alla mosca. Non importa che tu sia uomo o donna, vecchio o fanciullo, operaio o contadino, soldato o studente o commerciante, se ti chiedono qual è la cosa più importante per l'umanità, rispondi prima, dopo e sempre la pace. Buono! Adesso c'è quella di Natale! Aspetta che devono arrivare tutti! Pure Massimo, Vieni! Un altro bello! Guarda che poi Massimo la dice, Sentiamo la voce! No, io dopo l'acqua se ne sono. Allora! Natale! La notte è scesa e brilla la cometa che ha segnato il cammino. Sono davanti a te, santo bambino, col capochino e le manine giunte. Tu, re dell'universo, nando nella capanna, ci ha insegnato che tutte le creature sono pari, che le distingue solo la bontà. Tesoro immenso, dato al povero al ricco, Gesù, fa che sia buono, che il cuore non abbia che dolcezza. Fa che il tuo dono si accresca in me ogni giorno e intorno lo diffonda nel tuo mondo. Alessandro, ma è quello che ti ascolta. Alessandro, ma è quello che ti ascolta. Ma è quello che ti ascolta. Ma è quello che ti ascolta. Ma è quello che ti ascolta. Ma è quello che ti ascolta. Ma è quello che ti ascolta. Ma è quello che ti ascolta. Ma è quello che ti ascolta. Ma è quello che ti ascolta. Ma è quello che ti ascolta. Ma è quello che ti ascolta. Ma è quello che ti ascolta. Ma è quello che ti ascolta. Ma è quello che ti ascolta. Ma è quello che ti ascolta. Ma è quello che ti ascolta. Ma è quello che ti ascolta. Ma è quello che ti ascolta. Ma è quello che ti ascolta. Ma è quello che ti ascolta. Ma è quello che ti ascolta. Ma è quello che ti ascolta. Ma è quello che ti ascolta. Ma è quello che ti ascolta. Ma è quello che ti ascolta. Ma è qu